un'avventura cominciata lontano. Dimmelo tu se succede che piano come un mago scioglierò le mie dita. Di questa vita sento il freddo, le ossa, sento la pioggia come lama sottile, goccia su goccia, nessuna risposta da un amore che non vuole venire. Goccia su goccia, nessuna risposta da un amore che non vuole venire. Parlami e dimmi. Ascolterai e imparerai quanta cura dietro il bacio di una rosa smarrita. Parlami rosa, non lasciarmi da solo su questa pietra, come pietra non volo. Già i miei anni arrotolati tra i denti, le mie favole, i miei smarrimenti. Verso le porte di un pensiero che dorme, lacrime strette come scaglie di luce, scoprirai cader giù come foglie ed altre ragioni che non hanno parlato e vecchie canzoni che nessuno ha suonato. Occhi rapiti dal volto delle illusioni, prigionieri di forme e colori. Parlami e mostra la tua antica ironia a chi ha venduto le sue spalle e rideva dietro una maschera di lusso e follia nel teatro del sabato sera. Rosa rubata, entra nei miei desideri, potessi averti più vicino e parlare fino a che l'ultimo dei miei pensieri si confonda tra le onde del mare, fino a che l'ultimo dei miei pensieri si confonda tra le onde del mare.